La peste scarlatta di Jack Long, quarta puntata. Mi allontanai rapidamente per una strada laterale e appena svoltato l'angolo fu testimone di un'altra tragedia. Due uomini, appartenenti alla classe dei lavoratori, avevano fermato un uomo e una donna con due bambini, allo scopo di derubarli. Conoscevo l'uomo di vista, anche se non gli ero mai stato presentato. Era un poeta di cui avevo ammirato molto i versi. Ma non andai in suo aiuto, perché proprio in quel momento udii un colpo di pistola e lo vidi afflosciarsi al suolo. La donna strillò e uno degli assalitori la stese con un pugno. Reagii lanciando un urlo minaccioso, al che i due uomini mi scaricarono contro le loro pistole, costringendomi a fuggire. Ma svoltato l'angolo mi trovai la strada bloccata da un incendio. Gli edifici su entrambi i lati erano in fiamme e anche la strada era stata invasa dal fuoco e dal fumo. Da un punto imprecisato di quella nube rossastra si udì una voce acuta di donna che invocava aiuto. Tuttavia non pensai a soccorrerla. In quella situazione, fra tanti episodi d'orrore e troppa grida d'aiuto, il cuore diventava duro come il ferro. Tornato sui miei passi, scoprii che i due rapinatori si erano dileguati, ma quello che vidi fu sconvolgente. Il poeta e la moglie erano morti sul marciapiede e i due bambini erano scomparsi, non sapevo dove. E ormai avevo capito perché i fuggiaschi che incontravo si muovevano a passo furtivo e apparivano tanto pallidi. Benché il nostro fosse un mondo civile, nei ghetti, nei quartieri poveri e malfavati, avevamo generato una razza di barbari, di selvaggi, che ora, nel momento della calamità, si volgevano contro di noi, da quelle belve che erano, e ci annientavano. Al tempo stesso annientavano anche loro stessi. Sfrenati dall'ebbrezza, commettevano mille atrocità, pronti ad attaccare brighe e uccidersi fra loro nella follia generale. Vidi alcuni lavoratori della miglior sorta, i quali, dopo aver formato un gruppo, con le donne e i bambini al centro, i malati e i vecchi trasportati in barella e un carro carico di provviste trainato da alcuni cavalli, si aprivano la via combattendo per abbandonare la città. Era uno spettacolo magnifico vederli avanzare attraverso le dense volute di fumo, anche se quasi mi spararono allorché apparvi sul loro cammino. Passandomi vicino, uno dei capi mi lanciò una sorta di spiegazione. Ammazzavano a vista rapinatori e saccheggiatori e si erano uniti perché questo era l'unico mezzo per difendersi. Fu quella la prima volta che vidi ciò che presto avrei rivisto fin troppo spesso. Uno dei lavoratori in marcia, d'improvviso, manifestò i sintomi inconfondibili del morbo. Immediatamente coloro che gli stavano accanto si scostarono e senza una rimostranza quello si allontanò per lasciarli proseguire. Una donna, che molto probabilmente era sua moglie, tentò di seguirlo, tenendo per mano un ragazzo, ma il marito le ordinò severamente di andarsene, mentre altri la trattenevano per impedirle di seguirlo. Questo vidi, e vidi anche l'uomo con l'eruzione scarlatta sul viso fermarsi sulla soglia di un portone, dal lato opposto della strada. Subito dopo udì uno sparo e lo vidi afflosciarsi senza vita sul marciapiede. Dopo aver cambiato direzione per ben due volte a causa degli incendi, riuscì ad arrivare all'università. Ai margini del campus incontrai un gruppo di docenti che insieme alle loro famiglie, inclusi i domestici, si stavano recando alla facoltà di chimica. Quando il professor Madbinton mi salutò, ebbi difficoltà a riconoscerlo. Le fiamme gli avevano strinato la barba, aveva la testa fasciata con bende macchiate di sangue e gli abiti sporchi. Mi raccontò di essere stato picchiato crudelmente da alcuni saccheggiatori, quindi aggiunse che suo fratello era stato assassinato la notte precedente, mentre difendeva la propria abitazione. Nell'attraversare il campus, il professor Badminton mi indicò improvvisamente il volto della signora Swinton, che manifestava l'inconfondibile colorito scarlatto. Subito, tutte le altre donne si misero a strillare e scapparono. Anche le sue due figlie fuggirono insieme alle donne, con la bambinaia che l'accompagnava. Ma suo marito, il dottor Swinton, le rimase accanto. Vada pure, Smith, disse, e tenga d'occhio le mie figlie, per favore. Quanto a me rimarrò con mia moglie. So che è già morta, però non posso abbandonarla. In seguito, se riuscirò a salvarmi, verrò alla facoltà di chimica. Aspettatemi e fatemi entrare se mi vedete arrivare. Lasciandolo curvo ad accudire la moglie nei suoi ultimi istanti di vita, corsi a raggiungere il gruppo. Fummo gli ultimi a essere accolti nella facoltà di chimica. In seguito, difendemmo il nostro isolamento con i fucili automatici. Secondo il programma originale, il rifugio avrebbe dovuto accogliere 60 persone. Invece, ognuno di coloro che aveva aderito al progetto era accompagnato dalla famiglia, nonché da altri parenti e amici, così in tutto eravamo più di 400 anime. Tuttavia, l'edificio era spazioso. Inoltre, era isolato e non correva il pericolo di essere raggiunto dai grossi incendi che infuriavano ovunque in città. Si era provveduto ad ammassare una gran quantità di provviste e un comitato nominato appositamente si assunse l'incarico di distribuire quotidianamente le razioni alle famiglie e agli altri gruppi che si erano formati. Nominammo altri comitati, sviluppando un'organizzazione molto efficiente. Io entrai a far parte del comitato di difesa. Il primo giorno nessun saccheggiatore si avvicinò. Però ne scorgemmo alcuni in lontananza e dal fumo dei bivacchi capimmo che alcuni gruppi si erano accampati al margine opposto del campus. Passavano il tempo a ubriacarsi. Spesso li sentivamo intonare canzoni oscene o lanciare urla forsennate. Mentre il mondo era caduto in rovina e il cielo era offuscato dal fumo degli incendi, quegli esseri abietti sfogavano la loro bestialità, si abbandonavano alla violenza, si ubriacavano e morivano. Ma che cosa importava, dopo tutto? Erano comunque destinati a morire in breve tempo, buoni o cattivi che fossero, capaci oppure inetti. Coloro che amavano la vita al pari di coloro che la disprezzavano, anch'essi scomparvero. Tutto scomparve. Quando furono trascorse 24 ore senza che si manifestasse alcun sintomo del morbo, ci congratulammo con noi stessi e ci apprestammo a scavare un pozzo. Anche voi, nipoti miei, avete visto le grandi tubature di ferro che a quell'epoca distribuivano l'acqua a tutti gli abitanti delle città. Ebbene, avevamo il timore che gli incendi le facessero esplodere, causando così l'esaurimento delle riserve idriche. Dunque, sfondammo il cortile di cemento della facoltà e scavammo un pozzo. Con noi c'erano molti giovani, studenti non ancora laureati, così potemmo lavorare a turno, giorno e notte. E 3 ore prima che il lavoro fosse terminato, i nostri timori furono confermati. Dalle tubature non arrivava più l'acqua. Trascorsero altre 24 ore senza che si manifestassero fra noi i sintomi della peste. Pensammo di essere salvi, ma non sapevamo quello che solo in seguito riuscii a capire, vale a dire che il periodo di incubazione della malattia nel corpo umano era di alcuni giorni. Poiché il morbo era tanto rapido nell'uccidere una volta che si erano manifestati i sintomi, fummo indotti a credere che l'incubazione fosse altrettanto breve. Così, dopo essere stati risparmiati per 2 giorni, ci lasciammo trasportare dall'entusiasmo, convinti di essere liberi dal contagio. Tuttavia, il terzo giorno ogni illusione svanì. Non potrà mai dimenticare la notte che lo precedette. Era stato affidato il comando delle guardie notturne per il turno di sorveglianza dalle 8 alle 12. Dal tetto dell'edificio osservavo la fine di tutte le opere grandiose dell'umanità. Gli incendi erano così devastanti che tutto il cielo ne era illuminato. In quel bagliore rossastro si sarebbe persino potuto leggere un libro stampato a caratteri minuscoli. Tutto il mondo sembrava avvolto dalle fiamme. San Francisco eruttava fumo e fuoco da una ventina di giganteschi incendi che sembravano altrettanti vulcani attivi. Oakland, San Leandro, Hayward's erano tutti un immane rogo. E a settentrione, fino a Point Richmond, si scorgevano altri incendi. Quello spettacolo suscitava un vero timore reverenziale. Le civiltà, nipoti miei, la civiltà si stava consumando in una falda di fuoco e in un alito di morte. Alle 10 di quella notte i grandi depositi di polvere di Point Pinol esplosero in rapida successione. Le deflagrazioni furono tanto terrificanti che l'intero fabbricato ondeggiò come per effetto di un terremoto e tutti i vetri scoppiarono. Fu allora che scesi dal tetto. Percorsi lunghi corridoi e passai di stanza in stanza per tranquillizzare le donne allarmate, spiegando loro quello che era accaduto. Un'ora più tardi, in una finestra del pian terreno, udii un tumulto improvviso provenire dal bivacco dei saccheggiatori. Urla e strilli, colpi di pistola in successione. Concludemmo che lo scontro doveva essere nato dal tentativo di quelli ancora immuni di scacciare gli altri già contagiati. In ogni modo, un gruppo di saccheggiatori affetti dal morbo fuggì attraverso il campus, dirigendosi verso le nostre porte. Intimammo loro di andarsene, ma quelli, imbestialiti, risposero con una scarica di pistolettate. Il professor Merryweather, appostato a una finestra, venne ucciso all'istante da una pallottola in mezzo agli occhi. Aprimmo il fuoco a turno, finché tutti i saccheggiatori fuggirono, a eccezione di tre, fra cui una donna. Poiché erano già contagiati, non avevano paura di nulla. Come demoni depravati sotto il rosso bagliore del cielo, i volti scarlatti continuarono a maledirci e a sparare contro di noi. Uno dei due uomini morì sotto i miei colpi, mentre l'altro, e con lui la donna, si accasciarono alla fine sotto le nostre finestre, continuando a lanciare maledizioni, offrendoci così lo spettacolo della loro agonia. La situazione era critica. L'esplosione dei depositi di polvere aveva mandato in frantumi tutte le finestre della facoltà di chimica, talché ci trovavamo esposti ai germi dei cadaveri. Venne convocato il comitato sanitario che fronteggiò con coraggio l'emergenza. Si decise che due uomini avrebbero dovuto uscire a rimuovere i cadaveri, il che significava che avrebbero dovuto molto probabilmente sacrificare la loro stessa vita, dal momento che, dopo aver eseguito il compito, non avrebbero potuto rientrare nell'edificio. Si offrirono come volontari un professore, che era scapolo, e uno studente non ancora laureato. Si limitarono a dirci addio e uscirono. Come veri eroi sacrificarono la propria vita affinché altre 400 persone potessero sopravvivere. Finito il loro compito, indugiarono per un lungo attimo in lontananza, osservandoci con malinconico struggimento. Poi salutarono con un cenno e si allontanarono lentamente attraverso il campus, verso la città in fiamme. Ma fu tutto inutile. La mattina successiva il morbo si manifestò per la prima volta fra di noi. Una ragazza esile, la bambinaia della famiglia del professor Stout. Non era quello il momento per lasciare spazio ai sentimenti. Sperando che potesse essere l'unica contagiata, le ordinammo di lasciare l'edificio immediatamente. La ragazza se ne andò attraverso il campus, torcendosi le mani e piangendo sconsolata. Sapevamo che era un atto brutale, ma che cos'altro avremmo potuto fare? Eravamo 400. Un singolo individuo doveva essere sacrificato per il bene della comunità. In uno dei laboratori si erano stabilite tre famiglie. Ebbene, quel pomeriggio trovammo fra loro non meno di quattro cadaveri e sette casi di contagio nelle varie fasi della malattia. Fu allora che si scatenò l'orrore. Lasciando i cadaveri dove si trovavano, obbligammo i superstiti a rinchiudersi in un'altra stanza. Tuttavia, il morbo cominciò a infuriare in mezzo a noi e man mano che i sintomi si manifestavano, isolammo coloro che erano contagiati. Per evitare ogni contatto, li costringemmo a recarsi da sé nelle stanze di isolamento. Fu straziante. Nondimeno, il morbo continuò a propagarsi. L'una dopo l'altra, le stanze si riempirono di morti e moribondi. E così, noi che eravamo ancora immuni, ci rifugiammo nei piani superiori, arretrando dinanzi a quella marea di morte che, stanza dopo stanza e piano dopo piano, invadeva tutto l'edificio. La facoltà di chimica si trasformò in un obitorio. Nel cuore della notte i superstiti fuggirono senza portare nulla con sé tranne le armi, le munizioni e una provvista abbondante di cibo in scatola. Ci accampammo all'estremità opposta del campus rispetto al bivacco dei saccheggiatori e mentre alcuni di noi rimanevano di guardia, altri si offrirono volontari per recarsi in esplorazione in città alla ricerca di cavalli, autovetture e carri d'ogni sorta o qualunque altro mezzo che ci consentisse di trasportare le provviste. Nonché di emulare il gruppo di lavoratori che avevo visto aprirsi la strada combattendo per lasciare la città e rifugiarsi in campagna. Anch'io ero fra gli esploratori. Il dottor Hoyle, che rammentava di aver lasciato la propria vettura nel garage di casa, mi suggerì di andare a cercarla. Formammo squadre di due persone e io mi trovai in compagnia di Dombey, un giovane studente. Per giungere alla casa del dottor Hoyle, fummo costretti ad attraversare per mezzo chilometro il quartiere residenziale della città. dove le case erano ampiamente distanziate, fra giardini alberati e sentieri erbosi, e dove gli incendi avevano colpito in maniera bizzarra, devastando interi isolati ma lasciando altri completamente intatti, spesso risparmiando addirittura singoli edifici. E anche là i saccheggiatori erano all'opera, tuttavia con le pistole automatiche in pugno e il nostro aspetto disperato, Tuttavia, con le pistole automatiche in pugno e il nostro aspetto disperato, scoraggiammo qualsiasi loro velleità. Ma arrivati alla casa del dottor Hoyle, accadde l'imprevisto. L'edificio era stato risparmiato dagli incendi, però proprio mentre ci stavamo avvicinando furono investiti da un'esplosione di fumo e fiamme. Il furfante che aveva appiccato il fuoco scese barcollando i gradini e si incamminò sul vialetto. Era molto ubriaco. Dalle tasche della giacca spuntavano alcune bottiglie di whisky. Il mio primo impulso fu quello di sparargli. Non ho mai cessato di rimproverarmi per non averlo fatto. Vacillando e borbottando fra sé, con gli occhi iniettati di sangue, un vistoso taglio su una guancia coperta di una barba ispida, era all'insieme l'esemplare più ripugnante di degradazione e di sporcizia che avessi mai incontrato. Ma non gli sparai e lui si appoggiò a un albero del vialetto come per lasciarci passare. E seguì un gesto assolutamente vile e abietto. Nel momento in cui gli passammo accanto, sfoderò all'improvviso una pistola e sparò ad ombre un colpo dritto in testa. Con una reazione fulminea lo ammazzai all'istante, ma era troppo tardi. D'Ombe morì senza un gemito. Dubito persino che si fosse reso conto dell'accaduto. Mi allontanai dai due cadaveri, affrettandomi verso il garage sul retro, dove trovai l'autovettura del dottor Hoyle. Il serbatoio era pieno di carburante e bastava solo accendere il motore. Guidai attraverso le strade della città in rovina per tornare dai superstiti al campus. Gli altri esploratori erano già rientrati, però nessuno era stato altrettanto fortunato. Il professor Fairmont aveva trovato un pony di razza Shetland, ma il povero animale, abbandonato per giorni legato a una stalla, era tanto debole per la mancanza di cibo e di acqua che non era in grado di trasportare alcun fardello. Alcuni suggerirono di lasciarlo libero, ma io insistetti che avremmo dovuto portarlo con noi, perché se fossimo rimasti senza cibo avremmo potuto mangiarlo. Il giorno in cui partimmo eravamo in 47, in gran parte donne e bambini. Il preside della facoltà, già anziano e per giunta prostrato irrimediabilmente dai terribili eventi dell'ultima settimana, venne caricato insieme ad alcuni bambini e all'anziana madre del professor Fairman a bordo dell'autovettura guidata da un giovane insegnante di lettere, il professor Wathrop, che aveva una brutta ferita d'arma da fuoco a una gamba. Tutti gli altri procedevano a piedi e il professor Fairmont teneva il pony per le briglie. Si sarebbe potuta definire una luminosa giornata estiva se il fumo che saliva dal mondo in fiamme non avesse oscurato il cielo, lasciando soltanto intravedere la sfera opaca ed esangue del sole, che ardeva rosso e minaccioso. Ma ormai ci eravamo abituati a quel sole che aveva il colore del sangue. Con il fumo, invece, era diverso, perché bruciava gli occhi e le narici. Non c'era nessuno fra noi che non avesse gli occhi arrossati. Ci dirigemmo a sud-est, attraversando per chilometri gli interminabili quartieri periferici e residenziali che sorgevano sulle basse colline adiacenti alla piatta distesa del centro cittadino. Soltanto passando di lì si poteva giungere alla campagna. Avanzavamo con grande lentezza. Le donne e i bambini non potevano mantenere un'andatura rapida. Non si sognavano neppure, nipoti miei, di camminare come tutti camminano oggi. In verità nessuno di noi sapeva camminare e io stesso imparai a farlo soltanto dopo l'epidemia. Fu così dunque che tutti quanti dovemmo adeguare la nostra andatura a quella dei più lenti, giacché, a causa dei saccheggiatori, non osavamo separarci. Ormai quei predatori umani erano rimasti in pochi, perché il morbo li aveva falciati, tuttavia ne sopravvivevano abbastanza da costituire per noi una minaccia costante. Molte fra le ville più lussuose erano rimaste indenni, risparmiate dagli incendi, non di meno si vedevano rovine fumanti ovunque. Ma anche i saccheggiatori sembravano aver rinunciato al loro desiderio insensato di appiccare il fuoco, perciò vedemmo sempre meno case incendiate. Alcuni avevano il compito di esplorare sistematicamente i garage privati alla ricerca di autovetture e di benzina, ma senza successo. Durante il primo grande esodo della città, praticamente erano stati utilizzati tutti i mezzi di trasporto e le scorte di carburante. Calgan, un giovane in gamba, perse la vita durante una di queste ricerche, ucciso a colpi d'arma da fuoco da un saccheggiatore mentre attraversava un vialetto. Comunque, questa fu la nostra unica perdita, anche se una volta un ubriaco aprì deliberatamente il fuoco contro di noi. Per fortuna sparò da casaccio e riuscimmo ad ammazzarlo prima che ferisse qualcuno. A Fuitvall, nel cuore della magnifica zona residenziale della città, il morbo colpì di nuovo. La vittima fu il professor Fermit. Ci indicò a gesti che sua madre non doveva saperlo, quindi entrò nel giardino di una villa signorile e si mise a sedere sconsolato sui gradini del portico. Mi trattenni per qualche istante, salutandolo con un ultimo gesto d'addio. Quella notte ci accampammo ad alcuni chilometri di distanza da Fruitvale. Ma sempre in città e sempre quella notte, per due volte fummo costretti a trasferire il bivacco per sfuggire le vittime del contagio. La mattina successiva eravamo rimasti in 30. Non dimenticherò mai il preside della facoltà. Quel mattino, mentre camminava, sua moglie manifestò i sintomi fatali e quando si mise in disparte per lasciarci proseguire, il preside insistette per abbandonare la vettura e rimanere con lei. Seguì un'accesa discussione, ma alla fine cedemmo. Decidere altrimenti non avrebbe cambiato nulla, poiché non sapevamo chi fra noi sarebbe sopravvissuto, se mai qualcuno fosse davvero riuscito a sfuggire alla peste. Quella notte, la seconda del nostro viaggio, ci accampammo oltre Highwards, nel primo tratto di campagna, e la mattina seguente soltanto 11 di noi erano ancora in vita. Inoltre, sempre durante la notte, il professor Wathop, che era ferito a una gamba, fuggì a bordo dell'autovettura insieme alla sorella, la madre e a gran parte della nostra provvista di cibo in scatola. Fu quel giorno, nel pomeriggio, mentre riposavamo al lato della strada, che vidi per l'ultima volta un'aeronave, e sono certo che non ne vedrò mai più. Il fumo era molto più rado in quella zona di campagna. Quando l'avvistai per la prima volta, manteneva la rotta in maniera precaria, volando apparentemente senza guida a un'altezza di 2000 piedi. Non riuscii a immaginare che cosa fosse accaduto, tuttavia, proprio sotto i nostri occhi, inchinò la prua e iniziò a precipitare sempre più velocemente. Poi, evidentemente, le paratie cedettero e gli involucri esplosero, perché il velivolo cadde al suolo in perpendicolo. E da quel giorno non ho più visto un'aeronave. Spesso, molto spesso, negli ultimi anni, ho scrutato il cielo nell'assurda speranza che da qualche parte nel mondo fosse rimasta qualche traccia di civiltà. Ma era destino che non fosse così. Quello che accadde a noi in California deve essere accaduto anche agli altri, dappertutto. Passò un altro giorno e Niles rimanemmo in tre. Poco oltre Niles, in mezzo alla strada, trovammo Wathop. La tua vettura si era fermata e là, sulle coperte che erano state stese al suolo, giacevano insieme a lui sua sorella e sua madre, tutti e tre morti. Stanco per il continuo camminare, un'attività alla quale non ero abituato, quella notte dormii profondamente. Al mattino mi ritrovai solo al mondo. Canfield e Pearson, i miei ultimi compagni, erano caduti anch'essi vittime della peste scarlatta. Dei 400 che avevano cercato rifugio nella facoltà di chimica e dei 47 che avevano iniziato il viaggio, io soltanto rimanevo, io e il pony. Non so perché sia andata così, non esiste una spiegazione. Non ero stato contagiato dal morbo, questo è tutto, ero immune. Semplicemente ero l'unico fortunato su 1 milione di persone, cosa che si poteva dire di tutti gli altri superstiti, o piuttosto su alcuni milioni di persone, già che questa è la